Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Erano stati Stati Uniti e Italia a chiudere la prima parte di Eclettica di quest'oggi. Stati Uniti con White Denim e Mess Your Hair Up, e poi Settle Fish, Italia, Bologna per la precisione con Summer Drops. E sono Stati Uniti e Italia anche a aprire la seconda parte di Eclettica di quest'oggi in compagnia di Giulio Caperdoni, come tutti i giorni della settimana, tra le 19 e le 20. Stati Uniti con i Siberian, qui si parlava di Belgian Beer and Catholic Girls, qui si parlava di una birra belga di ragazze cattoliche, e Italia, ancora Bologna, con i Joycat, che sono originari della Basilicata, ma è a Bologna che fanno di base, che ci ascoltiamo, ci riascoltiamo con Shake Your Shape. Thank you. La folla balzò in piedi come un solo uomo e rimase in religioso silenzio. L'arbitro scandì 6! Ma prima che fosse pronunciato il 7, il pugilatore biondo si levò a fatica su un braccio. Poi, raccolte tutte le forze, fu di nuovo in piedi. Allora la folla tornò a sedersi e riprese a gridare. Il negro incalzò l'avversario e tutti e due, il biondo e il negro, si trovarono in mezzo al quadrato. La folla ruggiva: «Buttalo giù! Buttalo giù!» Questo era l'incipit di «Giubia Ba» di Jorge Amado. Expect to see you here this morning. Hey, well, something inside me told me I should be here. As if my future had something to do with it. We'll be right back. Siete pronti per ascoltarvi una novità all'interno di Eclettica, una delle tante novità di questa settimana? Beh, aspettate ancora un attimo, perché vi devo ricordare che vi siete ascoltati invece due brani che nelle ultime settimane stanno comparendo spesso. Prima i Buddy Rebels con I Dream of Rodney e poi un estratto da quello che è il nuovo dei The Magnetic Fields, ovvero sia Three Way. Eccoci la novità che esce per la XL Recordings. Loro sono una formazione che viene da Minneapolis, Minnesota. Si chiamano Tapes and Tapes e questa è Cowbell. I topi passarono, senza alcun timore, tra gli uomini che erano fermi ai piedi della scala buia. Era buia, sia di giorno che di notte. Saliva lungo l'edificio come una liana che si arrampichi all'interno del tronco di un albero. C'era un tanfo da camera mortuaria, un lezzo di roba sporca che gli uomini non avvertivano. E non badavano ai topi che salivano e scendevano, sfidandosi alla corsa, sparendo nell'oscurità. Questo era l'incipit di Sudore di Jorge Amado. Sono in ritardo. Che cosa c'è? Scusarmi. sono in ritardo. Calling you out. It's not 8 o'clock yet. It is by my watch. Let's settle this once and for all, Rudd. All right, you got the gump. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 11, volume numero 1, indice, tennis coats, Guster, sale, white denim. Settlefish, Siberian, Joycat, The Body Rebels, The Magnetic Fields, Tapes and Tapes, per i quali, seppure in fase di indice, mi permetto una precisazione. Io l'ho definiti novità e sono effettivamente una novità, ma per le playlist di Eclettica. In effetti, invece, l'album è uscito nel 2005 per XL Recordings e si intitola The Loon. Poi Eclettica è proseguita con Nano e The Manhattan Love Suicide. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.